cosa vuol dire per sempre. È soltanto una bugia. Se tutto se ne va in un attimo, lo vedi, è come il fumo che corre lassù e sale, si disperde contro il cielo. Se solo questa è la vita, io non smetto di sognare, e tutto quel che ho io non mi arrenderò, non mi rassegno più, non sarò come un albero caduto sotto i fulmini del cielo. Sotto il tetto blu del mondo, ma non m'ha ancora vinto la paura di vivere. Io t'ho cercata da sempre, il tuo dolore m'appartiene, ma non ti tradirò rassegnandomi a non vederti più, a non toccarti più, a non averti qui, qui con me. Abbracciati come naufraghi, sospinti a riva. Tutto quel che siamo andrà perduto, amarti è tutto quello che so fare, e mille baci ancora sotto il cielo ti darò, e mille baci ancora, e di nuovo ancora 100, e quando finirà questa breve luce, insieme dormiremo un'unica notte. Ancora baci, ancora 100.